Un uomo studioso, sguardo tenebroso, sempre cupo ricurvo sui libri. Giorni passati tra Dante e Omero, ma questo è il suo tesoro. E sua madre non lo concepisce, non lo capisce. E lei si rattrista perché dice: gli altri si divertono e mio figlio no. Mio figlio è così tetro, ma è la sua vita e questo è il suo sballo. E lo trova molto bello, non gli importa niente della gente. Gli anni passano, gli altri lo giudicano e lui incurante continua a studiare e a far rattristare chi gli vuole bene. Nel migliore dei modi si è laureato, oggi si è affermato. Nel suo paesello è rimasto lo zimbello, eppure lui sì, si è realizzato.